falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di un bambino diventato famosissimo in tutto il mondo verso la fine degli anni 70 e la sua fama è cresciuta per tutto il decennio successivo. Un incredibile attore, un comico nato, come lo definivano i suoi colleghi adulti, e un bambino che ha fatto divertire famiglie di tutte le nazionalità. Bene, questo bambino è stato condannato sia dalla natura sia dagli eventi a restare in qualche modo bambino fino alla fine, con una vita che ha dei risvolti che non hanno veramente nulla di comico, dei risvolti anche drammatici. Intanto, per capire chi è, vi facciamo ascoltare quella che era la sua frase tormentone, quella che lui ripeteva in continuazione, prima nella versione inglese, con la sua voce originale. What you talking about, Willis? What you talking about, Dad? What you talking about, Knight Rider? What you talking about, Mr. D? What you talking about, Willis? What you talking about, Adelaide? What you talking about, Willis? E poi nella versione italiana. Che cavolo stai dicendo, Willis? Eh sì, che cavolo stai dicendo, Willis, è una delle battute più famose nella storia delle sitcom americane, è stata esportata in tutto il mondo, ha reso questo bambino una vera e propria star. Il bambino che pronunciava questa frase, che è il nostro protagonista di oggi, si chiama Gary Coleman, ma tutti lo abbiamo conosciuto con il nome di Arnold. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Sigla americana di Different Strokes, che era una sitcom di enorme successo, prodotta negli Stati Uniti e trasmessa in 189 episodi tra il 78 e l'86. In Italia arriva già con il nome del personaggio che ha determinato il successo di questa sitcom. Il mio amico Arnold arriva nell'80 e Gary Coleman, cioè lui a 10 anni, è il protagonista indiscusso. La serie racconta la vicenda di due fratellini afroamericani, Arnold e Willis Jackson, che hanno 8 e 13 anni. Questi bambini vengono adottati da Philip Drummond, che è un ricco uomo d'affari bianco di Manhattan, che esaudisce l'ultimo desiderio della madre dei ragazzini, la sua governante, perché la donna, prima di morire, affida i figli a Drummond. Così Arnold e Willis lasciano la vita povera di Harlem per trasferirsi in uno splendido attico nel centro di New York. Infatti all'inizio si chiamava Harlem contro Manhattan questa serie. Quindi su questa trama si innestano molte situazioni più o meno comiche, con come dire, un fronteggiarsi di due mentalità: la mentalità povera dei neri di Harlem e quella dei ricconi, degli uomini d'affari di Manhattan. In questa serie ci sono vari personaggi, perché c'è Willis, il fratello, l'abbiamo detto, il signor Drummond, il papà, che ha una graziosissima figlia naturale che si chiama Kimberly, e poi una simpatica governante che è la signora Garrett. Queste sono le figure fisse. Poi ci sono altri amici di Arnold, la ragazza di Willis nelle ultime stagioni, e poi delle grandi guest star, la più importante delle quali è sicuramente la first lady del momento, Nancy Reagan, che interpreta se stessa in una campagna contro l'abuso delle droghe. Once the young American standing right through the picture window, she finds a slinky back upon, because as she passes a poet in my sting, heaven forbid she's taking the thing, but the freak and the strife for nothing, this is a step and cuts his hand, showing nothing, it slips like a song, she cries, where above Papa's hero's gone. once a young American. Quindi la sitcom ruota tutto attorno al personaggio di Arnold, che è interpretato appunto da Gary Coleman. In origine non era così, perché gli autori del programma avevano immaginato che i personaggi dovessero avere più o meno lo stesso peso all'interno della storia. Nella prima serie i fratellini vengono adottati da Philip Drummond, interpretato dal famoso attore Conrad Bain. All'inizio Willis non vuole accettare quella che gli sembra la carità del ricco uomo d'affari, ed è proprio Arnold, il fratellino minore, che lo convince del contrario. Willis, non voglio sentire neanche una parola. Dimmi se questa conta una parola. Se la mamma fosse ancora viva, ti saresti beccato qualcosa di peggio di una pernacchia. Di che stai parlando? Noi siamo qui perché prima di morire la mamma ha chiesto al signor Drummond di avere cura di noi. Secondo te ci avrebbe mandato a vivere in una famiglia che non ci voleva? Io farò quello che tu vuoi, Willis. Ma sei stato un gran musone dal momento che siamo arrivati qui. Il signor Drummond ha ragione. Non sei stato per niente giusto, né con me, né con te, né con lui, e né con la mamma. E qui Gary Coleman, Arnold, dimostra sorprendenti doti di attore, di comunicatore, e quindi in maniera quasi naturale lui diventa il protagonista principale del programma, quello attorno al quale ruotano tutte le vicende di questa strana e multietnica famiglia Drummond. Questo ragazzino deve avere veramente qualcosa di speciale, e vedremo di capire assieme di cosa si tratta. Dunque, lui nasce nell'Illinois a Zion l'8 febbraio del 68. Fin da piccolo mostra una comunicativa eccezionale, una simpatia innata che lo fa amare a prima vista, ha una faccetta rotonda dalle guance paffute, piace a tutti. Così il bambino inizia facendo la pubblicità. E lui stesso a raccontare cosa accade subito dopo quella prima esperienza d'attore nel docufilm La vera storia di Arnold, che è prodotto dalla NBC nel 2006. Mi sono divertito moltissimo perché era tutto ottimo materiale. Quando il materiale è buono è facile godersi il lavoro. Norman Lear aveva visto la mia pubblicità di McDonald's e gli ero piaciuto molto. Così ha portato il mio personaggio in quello di una nuova serie, Little Rascals. Non era un granché, ma a Norman io piacevo, così Conrad ha avuto un'idea brillante e è andato filato da Maud con la sua idea per una serie. L'idea è piaciuta e Norman ha pensato che era perfetta per noi ragazzi. Ed ecco come è cominciato. Quindi all'inizio tutto parte alla grande, tutto sembra andare benissimo. Beh, tra poco sentiremo come prosegue questa storia. Coleman diventa immediatamente il protagonista di questo Different Strokes. L'idea è dello stesso attore adulto Conrad Bain. Quindi Arnold diventa immediatamente un punto di riferimento per la serie, anche perché i produttori non sanno una cosa molto triste per il bambino, ma che si rivelerà essere una fortuna incredibile per la serie, perché Gary purtroppo nasce con una malattia congenita ai reni e soffrirà tutta la vita di nefrite, che è una gravissima forma di infiammazione renale che lo obbliga a continue dialisi anche sul set, ma che ha soprattutto una tragica conseguenza: l'interruzione della crescita. Così Gary rimane piccolo, in età adulta arriva a 1,30 m di altezza, sembra sempre un bambino di 8, massimo 10 anni, anche quando ne ha 16-18. Questa tragedia, bisogna dirlo, all'interno del telefilm è una fortuna, perché congela Arnold in un'immagine piacevole che attira, che lo fa amare dal pubblico. Il pubblico si affeziona a lui, lo vede sempre lo stesso, perché lui non cambia mai, è una certezza che rassicura. Il suo aspetto crea anche qualche dubbio. Ascoltiamo questa scena tratta dal docufilm La vera storia di Arnold. Una domanda, Gary. Gary Coleman, come ti senti ad essere qui stasera? Sei il nostro amico. Direi stupendamente. Sapete, Mi piace far ridere la gente e mi fa piacere sapere che ci riesco, che il pubblico apprezza quello che faccio. Gary, non hai paura di parlare in pubblico? No, sono sempre stato molto loquace. Gary, sei per caso un nano? Mi scusi, si riferisce a qualcuno in questa stanza che non riesco a vedere? Eh sì, il cinismo di certi giornalisti è notevole. E Gary Coleman in effetti potrebbe anche sembrare un nano, perché un po' la malattia che lo gonfia, la dialisi, ma anche il suo aspetto da piccolo adulto e la sua incredibile bravura da attore consumato, che è difficile da trovare in un bambino così piccolo, sono elementi che scatenano i giornalisti, che sono sempre a caccia dello scoop. Così c'è chi sostiene che in realtà Gary non sia un bambino ma un nano, ma non è vero, è un bambino malato. Ascoltiamo sua madre. He was sick. He has always been sick. He was born sick. Era malato, è sempre stato malato. Era nato malato. Non poteva guarire, ma sarebbe stato malato anche se non avesse lavorato. Era stato lui a decidere di fare quei film. Forse noi lo abbiamo un po' spinto, ma non era per i soldi, per un nostro tornaconto. Era perché Gary amava quello che faceva. Era felice di farlo. Aiaiaia, qui si comincia a delineare qualcosa di poco chiaro che avrà sviluppi terrificanti, perché la mamma di Gary, Sue Coleman, dice che loro forse sì, lo avevano un po' spinto verso quel lavoro, non certo per i soldi, ma solo perché Gary si divertiva. All'inizio è così, ma intanto la famiglia Drummond diventa veramente la sua famiglia, perché il suo padre adottivo nella finzione, l'attore Conrad Bain, è un uomo dolcissimo con il quale tutti i ragazzi hanno un rapporto di grande affetto. Conrad Bain, in effetti forse lo possiamo chiamare il vero padre di Arnold dal punto di vista affettivo, ricorda così la professionalità di Gary in relazione alla sua malattia invalidante. Aveva una grande sacca di plastica piena della soluzione per la dialisi. Doveva riempire la flebo e drenare i suoi reni ogni 4 ore, ma non si è mai lamentato. In tanti anni, nemmeno una volta. Nemmeno una volta. Never once. Gary Coleman ha un ottimo rapporto anche con Todd Bridges, che interpreta il fratello maggiore Willis, che all'inizio ha 13 anni, e con Dana Plato, che è Kimberly Drummond, la sorella acquisita, la bianca carina figlia del signor Drummond. Mano a mano che la serie si susseguono, gli episodi vengono prodotti, e mano a mano che arrivano gli impressionanti dati d'ascolto, la faccenda tragicamente si trasforma, perché i dati d'ascolto arrivano soprattutto grazie alla popolarità deflagrante di Arnold. La serie diventa una macchina per fare soldi, e lo diventa per tutti, per i genitori dei piccoli attori che vedono lievitare i conti in banca, per i produttori, la Tandem Production, che si ritrovano senza averlo programmato un incredibile successo tra le mani. E il loro nemico da battere è la famosissima serie Happy Days, no? Quella con Fonzie, Ricky Cunningham. Però Arnold tiene bene, gli ascolti sono superiori a tutte le migliori aspettative. Different Strokes diventa una macchina da guerra che produce episodi su episodi a un ritmo che non si concilia con le vite che dovrebbero avere dei bambini. Ascoltate cosa racconta Gary Coleman al Larry King Show. Lavoravamo da mezzogiorno a mezzanotte e questo non sarebbe dovuto capitare. Quando i bambini sono forzati a lavorare 12 ore al giorno è perché c'è la paura di perdere il proprio lavoro, di vedere affondare la barca. C'è un'enorme pressione sulle loro vite. Non esiste nell'industria cinematografica e televisiva un meccanismo sindacale che protegga dalla caduta in disgrazia, dalla perdita della notorietà, che è la cosa più terribile, soprattutto a livello umano. Io ho amato fare il mio lavoro, il mio amico Arnold. L'ho amato fino agli ultimi 3 o 4 anni. Dopo mi annoiavo, non mi piaceva più ed ero geloso degli altri bambini, perché mi stavo perdendo la mia infanzia, la mia vita normale. Sapevo cos'era un'infanzia normale, ma io non la stavo avendo. Beh, lui non era stato il primo, non sarebbe certo stato l'ultimo tra i bambini che vengono schiacciati dal loro stesso successo, che diventano delle macchine per fare soldi e spesso vengono derubati non solo dai manager, ma dai loro stessi genitori. Stiamo parlando di cifre altissime. Negli Stati Uniti, in California, proprio per questo fenomeno, viene istituita la cosiddetta legge Coogan, così chiamata dal nome di Jackie Coogan, l'attore diventato famoso nel 1921 per aver interpretato il film Il Monello di Charlie Chaplin. Coogan aveva guadagnato una fortuna di 3-4 milioni di dollari, tipo 50-60 milioni di oggi. La madre li aveva sperperati lasciandolo in assoluta povertà. Per prevenire il fenomeno viene promulgata questa legge che esiste tuttora, che prevede un accantonamento del 15% dei proventi degli attori bambini in un fondo di protezione al quale loro potranno accedere dopo la maggiore età. Bene, tra poco scopriremo cosa succede al piccolo Arnold e anche cosa succede di quel 15% e anche di tutto il resto. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Falco e il Gabbiano. Oggi stiamo ripercorrendo la vicenda di Gary Coleman, meglio conosciuto come Arnold, l'attore bambino, interprete della fortunatissima sitcom statunitense Different Strokes, conosciuta in Italia col titolo Il mio amico Arnold. Lui non è solo un grandissimo attore, è un bambino malato, affetto da una gravissima disfunzione renale che lo accompagnerà per tutta la vita, obbligandolo a dialisi continue. Però nonostante questo diventa una vera e propria star. Anche perché la malattia ha l'effetto collaterale di bloccargli la crescita, quindi lui rimane un eterno bambino e questo rappresenta una manna per la serie televisiva che va avanti per 8 stagioni senza conoscere crisi. Arnold è un comico nato, ha il fisico paffutello, eternamente piccolo, quindi è simpatico, è un cucciolo attorno al quale si concentrano le vicende della famiglia protagonista della sitcom, i Drummond. Naturalmente questo per lui si trasforma in un carico di lavoro insostenibile. Ascoltate ancora cosa racconta Larry King Show. Qual è stata la parte più dura per te? La parte più dura è stata avere sulle spalle tutto lo show, perché non scrivevano molte parti per gli altri personaggi, per Todd o Dana. Non c'era tanto la famiglia nello show e questo era molto stancante per me. Riuscire a memorizzare 60 pagine di dialogo tra me e uno degli altri protagonisti, e questo in ogni scena, questo è difficile e pesante. Non sto dicendo che non amassi il mio lavoro, è che non mi piaceva farlo da solo. E ricordiamoci sempre che Gary è un bambino molto malato. Ogni 4 ore deve fare uno stop per la dialisi. A un certo punto tenta anche un trapianto del rene, ma il suo fisico è troppo provato e lo rigetta. Lui non si fa abbattere da questa nuova batosta, certo che però i ritmi di lavoro lo stanno distruggendo. Sapete, è molto interessante che io non sia mai stato effettivamente impedito dalla mia insufficienza renale, eccetto quando ho rigettato l'organo trapiantato. È stata l'unica volta in cui ho subito un vero stop, letteralmente. Perché quando un organo viene rigettato è come se il tuo corpo ti parlasse, come se il tuo corpo ti dicesse tocca a me ricevere attenzioni. Ero stufo di fare l'attore, stufo di quella dannata serie, ero stufo. Eh sì, non ne può più, è famoso, però a lui non è che importi granché della fama, anche perché la fama per lui si traduce nella impossibilità di giocare in un giardinetto pubblico con i suoi compagni di classe. È ricchissimo, in teoria, però a lui i soldi non arrivano di certo. anche perché non saprebbe cosa farsene dei soldi, perché la sua vita ha delle regole ben precise: al mattino scuola dalle 12 alle 24, registrazione, e questo tutti i giorni. Nel weekend invece si lavora dalla mattina alla sera, e la vita di un bambino non è proprio questa. Finché i soldi manderanno avanti il mondo, nel mondo dello spettacolo i bambini correranno il rischio di diventare come scimmiette ammaestrate nelle mani degli adulti. Niente potrà mettere fine a questo orrore. Purtroppo è così. No, è così. Io sono la prova vivente di tutto ciò. Non sono morto, non mi hanno schiacciato, ma sono molto deluso, questo sì. Lui si definisce deluso, ma chi lo delude maggiormente sono proprio coloro che dovrebbero difenderlo, i suoi genitori. Gary ormai è un adolescente, anche se il suo aspetto è sempre quello di un bambino. Qualcuno lo mette in guardia, gli fa presente che il suo conto in banca è inesistente, i soldi li hanno intascati tutti i suoi genitori, che non sono solo i tutori legali, hanno fondato una società che percepisce tutti i suoi introiti, della quale lui non fa parte. Lui si informa, Gary, si fa consigliare dal suo padre nella finzione, Conrad Bain, chiede aiuto a un avvocato che fa delle indagini e che gli conferma quello che gli hanno detto. I suoi genitori lo hanno letteralmente derubato e lui è costretto a fare causa a suo padre e a sua madre. È una causa dura, triste, sofferta. Da una parte una madre e un padre milionari con il figlio famoso, dall'altra che è una star della televisione ma è povero in canna. Il giudice dà ragione a Gary, che licenzia tutti e fa chiudere la società dei genitori, ma dei soldi che lui ha guadagnato in tanti anni rimane ben poco. Tutti volevano un pezzo di me, un pezzo dello show, tutti volevano essere produttori, consulenti, volevano una fetta. Io continuavo a dire: non spendete così tanto. Non ce la facevo più e alla fine ho detto basta, basta di tutti voi, non voglio più questa gente intorno. Ma lo sapete, anche adesso che la causa è finita, non so ancora dove siano finiti i miei guadagni, 18 milioni di dollari. Sì, avete sentito bene, 18 milioni di dollari spariti, o per meglio dire rubati. Anche i soldi del fondo di accantonamento, quel 15% della legge di Coogan, quelli che avrebbero dovuto rappresentare comunque l'ultima salvezza. Bene, a metà degli anni Ottanta sono tanti soldi, bene, si sono volatilizzati anche quelli, spesi in case intestate a Willis e Sue Coleman e i genitori, spesi in auto di lusso, gioielli, sperperati da una cattivissima gestione. Ad aggiungersi a questa situazione che è disastrosa arriva la decisione dei produttori di chiudere la sitcom. Siamo nel 1986, dopo 8 stagioni, anche Arnold deve andare in pensione, anche perché lui rimane bambino, ma gli altri stanno crescendo. Deve cedere il passo a nuovi programmi. Gary Coleman è felice perché era stanco, stufo, marcio di quel personaggio bambino che non cresce mai, che lo obbliga a battute che lui percepisce ormai come mortificanti, come la famosa frase tormentone, no? Che cavolo dici, Willis? Ho detto che cavolo dici, Willis? Bene, questo tormentone negli anni diventa un tormento, come dice lo stesso Gary. Col senno di poi, se avessi saputo che quella stupida battuta avrebbe segnato la fine della mia carriera, mi sarei comportato diversamente, avrei detto cose del tutto diverse, avrei puntato i piedi molto più spesso e avrei detto: ora basta con questa stupida battuta. La ripete l'ultima volta, però questa volta lo fa con piacere. Nel 1996 viene registrato l'ultimo episodio della serie Willy, il principe di Bel-Air, che fa conoscere al grande pubblico il bravissimo attore Will Smith. In quest'ultimo episodio Willy deve vendere la casa dello zio, Arnold e suo padre vanno a visitarla in qualità di possibili acquirenti, ed è qui che Gary Coleman rispolvera il suo vecchio tormentone: che cavolo stai dicendo, Willis, che diventa: che cavolo stai dicendo, Willy. Who are you? Hey, I'm Will Smith. I'm the realtor. At night, you can hear the wailing of the dead. What you talking about, Will? Questa è l'ultima apparizione del personaggio Arnold, che forse avrebbe anche potuto evolversi, crescere, e invece c'è molto da recriminare. con tante persone, intanto coi genitori che sono colpevoli di uno dei comportamenti più spregevoli, quello di derubare un figlio, poi con gli agenti che erano troppo occupati a guadagnare la percentuale e senza accorgersi che il personaggio stava invecchiando, con i produttori che tra l'altro cominciano a promettergli nuovi progetti, nuovi ingaggi e poi spariscono nel nulla. Quindi Gary Coleman ha 18 anni ed è un povero disoccupato dopo aver guadagnato 18 milioni di dollari nel ruolo di Arnold. Lui non ha un ingaggio e nessun produttore riesce più a trovare un ruolo adatto a lui e ogni tanto lo invitano a uno show qualsiasi, ma lo fanno solo per ricordare il suo famosissimo personaggio. La domanda è sempre la stessa. Mi domandavo se potevi dirci la tua famosa frase. Lo sapevo che ci saremmo arrivati. Devi. No, non lo farò. Ho perso il mio lavoro perché non posso più farlo. Non è una cosa che mi appartiene più. È ridicolo quando lo dico. It sounds ridiculous when I do it. Gary ha 18 anni, è un attore finito. Il mondo dello spettacolo non lo cerca più e lui deve mangiare perché, come abbiamo detto più volte, non ha più un soldo. Gli impegni faticosi non fanno per lui perché, ricordiamolo, ogni 4 ore deve fare la dialisi, però si impiega come guardia giurata nei centri commerciali. Non mi vergogno di guadagnarmi onestamente da vivere. Un dollaro è un dollaro. Non importa che te ne diano 1.000 o 100, va bene lo stesso. Fare la guardia di sicurezza è ok, è un mestiere. Certo non guadagno come quando facevo il mio programma. Allora ero arrivato a prendere $70,000 a episodio. Ma io lavoro perché amo lavorare. Che sia fare la guardia o girare hamburger o qualsiasi altra cosa, amo lavorare. Beh, sembra impossibile che un personaggio del calibro di Gary Coleman arrivi a non avere più un dollaro. La cosa però non è così strana. Tra l'altro anche gli altri personaggi, gli altri due piccoli protagonisti della sitcom, vengono accomunati da una profondissima crisi personale. Todd Bridges, il fratello di Arnold, finisce più volte in galera per abuso di cocaina, per avere tentato addirittura di uccidere uno spacciatore, è tornato a recitare solo di recente in piccoli ruoli. Dana Plato, la deliziosa Kimberly Drummond, ha una sorte ancora più triste perché muore nel 1999 di overdose dopo una vita di stenti e il figlio Tyler, avuto nell'85, si è suicidato con un colpo di pistola alla tempia a soli 25 anni. È una sorta di maledizione che pare accomunare i piccoli interpreti della fortunatissima serie di Arnold. Ma torniamo a lui, torniamo a Gary Coleman. Nell'agosto del 2007 Gary ha quasi 40 anni e a sorpresa arriva una notizia che fa nuovamente interessare i media a lui. Gary Coleman è un uomo sposato. La moglie si chiama Shannon Price, ha quasi la metà dei suoi anni ed è alta quasi il doppio di lui. Così Gary si sposa, la giovane moglie si chiama Shannon Price, ha 22 anni, lui l'ha conosciuta sul set del film Church Ball, dove lui aveva un piccolissimo ruolo. Lei è una bellissima ragazza, alta, bionda, ha un carattere bellicoso, però il matrimonio tra i due è caratterizzato fin da subito da liti furibonde. E pochi mesi dopo i due partecipano al programma televisivo Divorce Court, una specie del nostro forum o di un programma, vi ricordate, ci eravamo tanto amati, un programma nel quale il tribunale tratta cause di divorzio e la gente ama andare a litigare in diretta, cioè i coniugi fanno questo tipo di spettacolo triste. Cosa è successo nell'ultima delle tremende liti che lei dice avete una volta al mese? Le liti sono tutte diverse, ma la causa sono sempre io. È sempre l'uomo quello cattivo, no? quello che crea problemi. Signora Price, parliamo un attimo del signor Coleman. Lei dice che ha dei momenti di rabbia. Sì, batte i piedi per terra, grida no, tira le cose in giro e sbatte anche la testa contro il muro. Avete sentito Shannon Price dire davanti a tutti i telespettatori che suo marito sbatte spesso la testa contro il muro. Triste presagio, a distanza di un paio d'anni questa sua affermazione si colora delle tinte forti del giallo. Intanto Gary fa parlare parecchio di sé a causa dei suoi ripetuti guai con la giustizia. Nel 2008 viene arrestato per avere volutamente investito una persona in un parcheggio, l'anno successivo per presunte violenze domestiche, poi per avere picchiato una sua fan che gli chiedeva l'autografo. Infine il 26 maggio del 2010 i telegiornali parlano ancora di lui mentre si trova con la moglie nella sua abitazione a Santa Ken nei pressi di Salt Lake City nello Utah. È vittima di un terribile incidente domestico, cade battendo violentemente la testa. Ricoverato d'urgenza all'ospedale per emorragia cerebrale, le sue condizioni peggiorano il giorno dopo quando entra in coma. Mantenuto in vita artificialmente ancora 24 ore, muore quando la moglie, con grande sollecitudine, chiede il distacco delle apparecchiature. È il 28 maggio 2010, Gary ha compiuto da poco 42 anni. Le circostanze dell'incidente sono poco chiare, la polizia apre un'indagine di presunto omicidio nella quale la moglie Shannon è ovviamente la maggiore indiziata, anzi l'unica, perché i due erano soli in casa. C'è stata tanta speculazione sulla sua morte. Ho sentito un sacco di gente dire sì, è stata lei, lo ha spinto. Le persone sono crudeli, non sanno. Io ero al piano di sopra, lui era di sotto, come avrei potuto spingerlo? Questo è quello che mi ha fatto più male. Non posso credere che la gente sia così senza cuore. Perché avrei dovuto fare del male a mio marito? Ma stiamo scherzando. Il dottore ha detto che anche se lo avessero operato, sarebbe morto lo stesso per emorragia durante l'intervento. E anche se l'intervento al cervello fosse andato bene, non sarebbe più stato lo stesso uomo. Sarebbe morto comunque per il colpo. Il trauma al cervello era drammatico. Non voglio che la gente sia così dura con me e pensi che abbia qualche colpa. Il suo cuore non ha retto. La gente non deve pensare che sono una poco di buono e che non mi sono presa cura di lui. E il quadretto si completa con il ritorno dei genitori di Gary Coleman, che dopo la sua morte si rifanno vivi, come racconta il giornalista Mike Fleeman della rivista People. I genitori di Gary Coleman vogliono delle risposte. Vogliono sapere come è morto il loro figlio, come è accaduto, quali sono le circostanze della sua morte. Anche perché Gary e Shannon avevano un matrimonio molto burrascoso. E insomma, la definizione iene mi sembra la meno peggio, perché è evidente che questi genitori rientrano in gara perché hanno ancora qualche interesse economico, vogliono spremere il figlio anche da morto. Si parla di assicurazioni sulla vita, clausole, eccetera, eccetera. Bene, Gary Coleman non ha avuto una vita facile, ha sofferto di una malattia invalidante e gli affetti più importanti in realtà non li ha mai avuti, anzi sono stati tutti delle persone che lo hanno tradito. Però ci fa piacere ricordarlo con una frase che ha detto in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, una frase piena di speranza. Il passato tornerà sempre a tormentarti, c'è sempre un nervo scoperto che fa male dentro di te, come un morso di cane, e ti costringe a fermarti a pensare, ma finché sai quanto ti costerà e sai di avere una meta che vuoi raggiungere, quello che vuoi fare nella vita, allora il passato non dovrebbe condizionarti granché. La mia vita è ripartita da zero, del tutto, in una forma migliore e del tutto nuova. E ora sono l'unico ad avere il controllo su di me. Beh, siamo sicuri che ovunque si trovi ora nessuno cercherà più di sfruttare e di approfittarsi di lui, di Gary Coleman, del nostro Arnold. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno avuto un colpo d'ala nella vita e qui, come spesso abbiamo raccontato, sono ali che sono state un pochino tagliate da qualcun altro. È una storia della quale forse credevamo di sapere molto e sapevamo molto poco. Se volete mandarci commenti o consigliarci altre vite sulle quali puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24 www.radiofalco.it oppure venite a trovarci nei nostri e nei miei social, insomma, se mi cercate, mi trovate. Ciao! Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.